E eccoci qua, vediamo se con l'aiuto della tecnologia riusciamo ad andare in diretta. Pronto, mi senti? Ci siamo, vero? Sì, ti sento. Dai, benissimo. Sì, mi sento un po' lontano però. Siamo lontani qualche migliaio di chilometri. Tra l'altro mi dicevi che sei a Managua, sei tornato in Nicaragua. Appunto, ci puoi comunque fare un riassunto degli sviluppi delle ultime settimane? Noi ci eravamo sentiti due lunedì fa, all'indomani delle elezioni che hanno visto la vittoria quantomeno formale del candidato del Partito Nacional. Ci sono state proteste da parte della candidata sconfitta del Partito Libre, Xiomara Castro de Zelaya, da parte di organizzazioni e di componenti della società e della politica honduregna. Qual è stata la situazione delle ultime settimane, le proteste e le denunce di brogli, insomma? Sì, dunque, la situazione appunto è quella che insomma un po' dicevamo due settimane fa, quindi i risultati alla fine hanno dato un largo vantaggio del candidato della destra, di Juan Orlando, però d'altra parte c'è stata la contestazione di questi risultati da parte di Libre, ma non solo di Libre, ma anche del partito anticorruzione di Salvador Nasralla. Due forze che complessivamente comunque sommerebbero quasi il 50%. Queste contestazioni hanno, diciamo che nonostante tutto questo, il Tribunale Supremo Elettorale dell'Honduras ha assegnato la vittoria a Juan Orlando, e ora il Partito Libre ha già presentato dei ricorsi e ha anche chiesto l'annullazione delle elezioni stesse, diciamo, ecco. Dunque, la situazione ora è un po' di attesa. Secondo quei risultati che è in mano Libre, il partito avrebbe un vantaggio di circa un 130-140 mila voti. E diciamo che come cosa è abbastanza credibile come conteggio. Il problema è che difficilmente comunque riusciranno a ribaltare questo risultato. Senti, ma leggevo che il partito, insomma, una critica su internet, un articolo qualsiasi, magari non è molto rappresentativo della situazione honduregna, però una critica che leggevo è che il Partito Libre e i coniugi Zelaya, insomma, non avevano voluto troppo puntare su un tipo di protesta popolare in strada, mentre avevano scelto questa via diciamo legale di riconteggio. Sì, diciamo che questa critica viene fatta da più parti. In effetti un po' la questione è proprio questa, cioè se da una parte Libre contesta la validità delle elezioni, dall'altra parte è stato molto, potremmo dire, ambiguo da questo punto di vista, nel senso che non ha chiamato immediatamente alla gente a scendere in piazza. La gente si è trovata inizialmente un po' disorientata per questo atteggiamento, perché di fronte a una così evidente fraude come quello che supposto c'è stato, si pensava che insomma Libre avrebbe chiamato tutti quanti a scendere in piazza. Così non è stato, come anzi avevamo anche un po' previsto la due settimane fa, e c'è stato inizialmente, diciamo, quindi un po' uno spontaneismo nel scendere in piazza, soprattutto questo è stato da parte degli studenti. Gli studenti, diciamo, che sono scesi in piazza già dal secondo giorno dopo le elezioni, hanno continuato a farlo nella settimana successiva per tutti i giorni, facendo sì un discorso di contestazione del fraude, ma comunque per gli studenti e anche per tutte le altre organizzazioni sociali, al di là del discorso del fraude in sé, c'è anche il discorso del pericolo di questa vittoria di Juan Orlando, che porterà a disastri annunciati come un'ulteriore militarizzazione del paese, nonché tutta quella svendita.